iniziamo le nostre riflessioni con una parabola. Un giorno, mentre Gesù parlava ad una grande folla, si avvicinarono dei giovani, uno dei quali stringeva fra le mani qualcosa. Avendo sentito parlare della sapienza di Gesù, pensava di tendergli un tranello quando la folla era al massimo. Il giorno prima aveva preso un uccellino. Il giovane pensava di dire al maestro: «Maestro, che cosa ho nelle mani?» Se Gesù avesse risposto «un uccellino», egli avrebbe chiesto: «Maestro, l'uccellino è vivo o morto?» Se la risposta fosse stata «morto», lo avrebbe fatto volare via. Se invece Gesù avesse detto «vivo», avrebbe schiacciato il collo dell'uccellino col pollice, mostrando a tutti l'uccellino morto. Il giovane si avvicinò baldanzoso. «Maestro, se sei così sapiente, cosa ho nelle mani?» «Un uccellino», rispose subito Gesù. Un po' meravigliato, il giovane riprese: «Maestro, se sei veramente tanto sapiente, dimmi se l'uccellino è vivo o morto». Senza un attimo di esitazione, ma parlando solennemente, Gesù gli rispose: «Giovanotto, la decisione è nelle tue mani». Questa parabola esprime bene l'atteggiamento che molti uomini hanno di fronte a Dio. Pensano di fare i furbi e di ingannarlo, ma la Scrittura afferma che l'Eterno si mostra pietoso verso il pio, integro verso l'uomo integro, si mostra astuto con il perverso. Salmo 18 e 26. È vero che la caratteristica principale di Dio è di essere misericordioso e buono, ma è altresì vero che Egli non si lascia trovare da chi lo vuole ingannare. Purtroppo anche i credenti a volte fanno i furbi con Dio e lo tentano. Che lo facciano apposta o inconsciamente è un interrogativo che riguarda Dio solo, ma di fatto molti figli di Dio tentano il loro Salvatore, soprattutto quando pretendono che Lui faccia quello che spetta a loro. È vero che ci sono cose che Dio decide nella sua sovranità, come il nostro sesso, la nostra altezza, le caratteristiche somatiche, l'appartenenza ad una famiglia, ad una nazione o ad una razza, ma ci sono cose che spettano solo a noi e nelle quali siamo chiamati a mettere tutto il nostro impegno. Proprio questo argomento sarà oggetto della nostra discussione. Leggiamo nella prima lettera di Pietro il seguente brano. «Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a render sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai». 1 Pietro 1, 5, 10. Da questo brano risulta evidente che la virtù, la conoscenza, l'autocontrollo, la pazienza, la pietà, l'affetto fraterno e l'amore sono il risultato di un impegno. Queste qualità cristiane non nascono spontaneamente come le erbacce, non si trovano per caso come una banconota per strada, ma sono il risultato di uno sforzo e di un'assunzione di responsabilità. La grazia di Dio che salva l'uomo dona al credente ogni sorta di benedizioni come lo Spirito Santo, l'introduzione nella Chiesa, il conferimento della mente di Cristo, ma questo patrimonio non deve rendere passivo chi ha posto fede in Cristo. Una valutazione esagerata della grazia di Dio porta il credente ad una smodata passività nel campo della fede, come una sottovalutazione della grazia di Dio porta il credente ad un eccessivo attivismo. Come in tutte le cose, è necessario e indispensabile tenere presente ogni aspetto del piano di Dio, diversamente si cade in un inevitabile estremismo. Oggi più che mai abbiamo bisogno di equità e sobrietà, perché se crediamo a ciò che è scritto, negli ultimi tempi gli uomini saranno sì religiosi ma fanatici. Prima del ritorno di Cristo gli uomini cercheranno delle risposte ai loro interrogativi e nel caos politico e religioso sorgerà un uomo che avrà la pretesa di dare la risposta ai problemi mondiali. quest'uomo farà parte del cattolicesimo romano, stipulerà un patto per 7 anni con molte nazioni, ma dopo 3 anni e mezzo farà un voltafaccia. E questo avverrà perché gli uomini non si sono impegnati in prima persona a valutare le situazioni della vita alla luce della parola di Dio. Il Dio dei cristiani non chiede all'uomo nulla di estraneo al suo vivere quotidiano. Tutti gli uomini, ma proprio tutti, in ogni cosa pongono impegno e fatica. Così, se si vuole essere promossi a scuola, occorre impegno. Se si vuole riuscire sul lavoro, se si vogliono ottenere dei buoni risultati nello sport, se si vuole avere una famiglia felice, è indispensabile impegnarsi ogni momento senza stancarsi. Perché dovrebbe essere diversamente nel campo della fede? Perché dovrebbe esserci meno impegno nel cercare di trovare Dio? Cosa significa che il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono? Non è forse riferito al massimo impegno che l'uomo deve impiegare per ottenere ciò che desidera? Va sottolineato che il regno di Dio non è un luogo dove capiti di trovarsi accidentalmente, non lo si trova per caso, come quando esplorando una zona sconosciuta accade di imbattersi inaspettatamente in un bellissimo paesaggio. Il regno di Dio è il regno dei forti, è per coloro che vogliono entrare, è per coloro che non agognano altro che far parte di quelli che umilmente accettano di sottomettersi a Cristo Gesù uomo. In definitiva, entrano nel regno di Dio le persone che mettono tutto il loro impegno ad entrarvi, che accedono al regno con una volontà tale da rinunciare a tutto, che entrano perché pienamente coscienti che senza appartenere al regno di Dio per loro sarebbe la morte. Tutto questo viene realizzato con un atto di aggressività, un'irruenza, di volontà, di impegno, che procede da volontà intenzionale. Gesù disse: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno». Luca 13 e 24. È angoscioso pensare che alcuni cercheranno di entrare nel regno di Dio e non potranno, perché lo cercheranno senza veemenza, senza voler trovare davvero, senza metterci tutto il loro impegno. Perciò è più che urgente bussare con ostinatezza, usare quella volontà violenta che ci concede di entrare e vivere nel regno dei cieli. Chi ha compreso questo messaggio? Nelle scritture leggiamo che i codardi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, Apocalisse 21.8. E questi codardi non sono coloro che hanno paura dei serpenti o degli scorpioni, ma coloro che sono passivi e non hanno il coraggio di mettere tutto il loro impegno per trovare Dio e per vivere per Lui. Afferma un proverbio che in ogni fatica vi è il suo profitto, Proverbi 14.23. Ho sperimentato di persona questa verità quando ho iniziato a parlare per radio. Nei primi 20 anni della mia vita cristiana avevo scritto a macchina più di 1000 studi. Studi che in seguito mi sono serviti per fare delle trasmissioni. Non avevo imparato a usare la macchina da scrivere perché un giorno sapevo che avrei dovuto usare la tastiera del computer. Non avevo scritto gli studi per fare delle trasmissioni. Non avevo studiato la parola di Dio per predicare per radio. Ma la mia fatica disinteressata ha avuto la sua utilità. Anche l'Apostolo Paolo con impegno ha scritto delle lettere dei credenti, ma non pensava lontanamente che dopo 2000 anni esse fossero ancora lette. Questi esempi possono essere di incoraggiamento per tutti coloro che si impegnano nel campo di Cristo, qualsiasi cosa facciano. Dio si serve delle loro capacità. Pochi credenti hanno capito che se Dio può fare a meno della nostra intelligenza e capacità, quanto più farà a meno della nostra ignoranza e incapacità. Perciò, se nella vita ogni fatica ha la sua utilità, quanto più l'impegno nel campo di Dio ha i suoi buoni risultati. Infatti l'Apostolo Pietro mette in evidenza i risultati di chi si impegna ad aggiungere alla propria fede la virtù, e alla virtù la conoscenza, l'autocontrollo, la pazienza, e ancora la pietà, l'affetto fraterno e l'amore. Perché, come dice in seguito, se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco. L'impegno e la fatica nel campo di Dio evitano una vita vuota, pigra, insulsa e noiosa. Inoltre, nel mettere in pratica la volontà di Dio vi è la bellissima promessa di conoscere sempre di più Gesù Cristo. Ciò che Pietro ha detto deve far riflettere. Non è la conoscenza teorica o filosofica della verità a portarci alla conoscenza di Cristo, ma una vita di impegno e di consacrazione. Chi ha solo una conoscenza astratta della volontà di Dio è cieco spiritualmente e, come ogni altro cieco, nella vista è costretto a lasciarsi guidare o da una persona, o da un cane, o da un bastone. Il credente che non si impegna è dunque un credente dipendente, incapace di guidare altri. Il salmista disse: «Ho messo il mio impegno a praticare i tuoi statuti, sempre, sino alla fine». Salmo 119, 112. Ecco un proposito dal valore inestimabile. Imbarcarsi nell'impegno di osservare i comandamenti di Cristo fino alla fine della vita. Dopo, beh, punto, non ce ne sarà più bisogno. Novembre 2006. Ellero,